cosa ho perso. Sì, stai fischiando, cosa hai perso? Niente ancora, ok. Stavo scherzando, se c'era qualcuno in giro. Sì, ci sono io, c'è Natalino che sta facendo cose. Poi ci sono tutti gli orecchi di porco. Che diventi, Ani? No, io mi stavo controllando un Clion, un Stereo di quelli vecchi, la macchina, stavo controllando le cose di avvocato, c'è un problema di cosa, di meccanica, devo cambiare la cinghia, e basta. Ah, quelli a elastico, dai, quelli a, a coso. Ancora sagattami. Sì, già, ancora sagattami. Mi è rimasto uno di quel Clion. Li cercano ancora di quelli, lo sai, quelli tipo di stereo, per mettere in quelle macchine d'epoca, hai capito? Con due casse, con la plancia, ma lo vecchio, è perfetto. Sì, quando si rompeva quella cordicella, mettevamo gli elastici, quegli elastici duri, capite? Lasciamo camminava, e beh, quelli sono cercati sì per le macchine d'epoca. Ne ho visto uno lì a, a cosa, no, Portobello, quell'altro che c'è, il suo bignoso. Ah, io vabbè, quello già sei, come tutta la montezza, lo prende 5 euro, lo vende 20, il costo è quello. A me se la piglia ancora, io non regalo niente a lui. Certo, un giorno dicevo non voleva di questa montezza, però me la tengo io, non si preoccupi. Che me la vendo io, detto, da internet, non c'è problema per quello, detto. Cioè guadagno lo stesso, ho detto, mi sento devo venire qui e recuperare, aspettare i tuoi soldi suoi, ho detto. Magna gozo, io, perché da fini luce, che hanno poco di mondezza. No, io, è lui che stavo aspettando un collega, stavo guardando, ma ti ripeto, è un mondettaio vero e proprio. Quello bello, veramente come mercatino, ordinato, pulito, con tutte le cose in ordine, è quello di Gianfranco. Quello di Viale Porto Pontes, capito? San Marcanda. Siamo amici con Gianfranco. Quello sì che è bello, quello ordinato, pulito, c'ha le cose giuste, cose che funzionano, non ha mondezza. Sì, già lo so qui, infatti. Poi è bello che quello si vende la, la roba a metà, prima gli alimentatori e poi il resto, hai capito? Quindi, il discorso no, è un cane morto, capito? È nulla, ma è napoletano peggio del figlio quello che c'è. Cosa è successo? Ditelo a me. Non ci abbiamo detto, cosa è successo? Il documento intende a che cosa? Dice che, mamma mia, signora Giovanna Barica, sempre quello ci barabbi, No, sai cos'è? Stavo guardando due film di Verdone, è finito adesso, dai, quindi ho passato mezza serata. Di chi stavate parlando? Del Pidocchio? Non so come si chiama, Subinghiuso. Il Subinghiuso Pidocchio è Pulce, un bel bingo vecchio vivente. Quello lì, no, a me non mi può vedere, perché io quasi gli avevo detto in faccia che era mutinaggio, che era presa roba di mondezzaio, e lui ha sentito, capito? E quindi si è rimasto male, non mi può vedere. Però è così, è tutta roba di mondezzaio. Non si può fare un negozio così, dai. Sì, quello di Samarcanda, mi ricordo quando era via Poligono, era veramente un bel negozio. Aveva roba anche un po' di tipo antichità, no, quelle cose lì. Bello ordinato, così deve essere un negozio, no? Una specie di mutinaggio, c'era un altro termine da dire, adesso non me lo ricordo. È un vero mondezzaio, Marco, è un vero mondezzaio, è tutto lampato in terra, ma come fai a comprare roba? Capito? Fuori è un mondezzaio, c'è tanta quella roba da buttare che non ve ne aveva dito. Capito? Mi sono finta che comodi, roba da matti, tappi di cessi, ma anche come si fa? Cioè io vado a comprare un tappo di cesso, e poi mi ci siedo sopra. Ma per favore, cioè, c'ha mondezza, capito? Quello da chiudere perché non ha nessuna igiene. Non capisco come mai ancora è aperto. Quello di Gianfranco è veramente bello, io sono stato, ma siamo amici. Anche l'altro giorno abbiamo preso il caffè assieme perché abitavo, quando ero via Pasqua lui era sopra di me, quindi anche a fianco a me perché lui risultava la voce forbice, io invece nell'altro po'. Gianmarco. Pure quello è Gianfranco, il ragioniere della Electrolux anche a me. Sì, chiamalo di cotto già. Gian Umberto, inizio di Umberto, quello era. Di fronte alla banca. La Banca d'Italia. Ehi, ehi, quindi scusiamo la vita. Ci sono stato quando era lì, via Poligono, era molto bello, però mi aveva detto che appunto stava cercando un posto più grande per ampliare, per avere qualcosa di più. Infatti l'ha trovato lì, dove la ferramenta carbonica del portatore è grande, è un bel posto, poi c'è il posteggio, capito, entri dentro, tranquillo, quello, quello è ordinato veramente. Maliscio, Sant'Antonio mi pucci pucci. Discarica volevo dire, me. Marco, se vai la discarica è più ordinata, capito? Eia, ma Antone, tu gli hai portato roba, così è. E cosa ti ha detto lui? Cosa gli hai portato, per esempio? Ho portato un po' di tutto, c'erano plance per stereo nuove nuove, scatolate, poi c'era un appendicravatte nuovo nuovo. Forse con l'altra roba, non ho avuto, non ho avuto niente, niente, non ho avuto niente. No, che, roba che poi quando ho avuto qualcuno qua mi me l'ha dato me, e poi sono via, non so che se me la fai a me. Te l'ho regalato, perché a un certo punto, cioè, quando si senti cose del genere, cosa, a un certo punto cosa fai? Basta qualcuno dice, va, l'attore, se c'è per quello, non lo posso portare solo via, cosa me ne frega. Hai capito? Sai quello balato lì. C'è stelle di lavatrice, sai quanto ho lavato? Adesso cazzo vado a... c'ho la lavatrice messa male, che mi servono gli ammortizzatori, io cazzo preso ce l'ho buttata in cazzo. Adesso voglio comprare nuovi, c'è stelle di lavatrice anche le molle, cazzo, della mia, elettronica. Ma fanculo a me che ce l'ho buttata con i cestelli, cazzo. Potevo tenermi in garage per dire. Avevo avuto i pezzi del cambio. Eia, no, infatti già Portobello c'ha roba invendibile, macchine fotografiche di 70 anni fa, nemmeno gli antiquari le vogliono perché ce n'è una quantità in giro notevole. Anche da Portobello vedi caffettiere sporche, incrostate, senza manico, poi, quindi non sono vendibili da Portobello. Non so chi ha avuto il coraggio di portarle e come hanno avuto il coraggio loro di metterle in vendita, perché sono delle schifezze. Samarkand invece era il più bello, proprio piacevole come negozio a vedere. Se non sbaglio è un XCB anche, no, quello? Gianfranco, modulava anni fa insieme a Luigi, non mi ricordo come nativo Luigi, io chiamavo Capapigi, volava lì da via Marghinotti. Luigi lavorava, era il tecnico della Electrolux di via Lombardo, capito? C'aveva anche la radio lì, KK, un ashram in Montinaggio, Portobello. Portobello è il Montinaggio numero uno, da quando è iniziato è stato sempre un Mondezzaio, mattina, ma cosa fa la gente, cazzo, boh, io dico, a comprare la roba usata da vestire. Un giorno mi sono trovato per caso proprio a Portobello, che stavo cercando un decoder con per mettere la scheda premium, capito? Perché il televisore che avevo prima, con il mio socio, non c'aveva il coso per mettere la scheda, poi quello che ho comprato c'ha la scheda per premium. Ma era uno, misurendosi, uno ne prendeva le giubbotto di camicie, di cose, ma lì appese, se le misurava, poi le riappendeva, se le misurava, come fai a fare una cosa del genere? Ma se non sai manco di chi era quella roba? Sì, loro ti dicono, me la porti disinfettata, pulita, lavata, profumata, ma cosa mi ne affutta a me? Ma chissà di che, come fa la gente a portare la roba e andare a comprarla usata? Sarà gente povera, perché poi profumata non è, capito, né lavata né profumata, perché se le annusi certe giacche, mamma mia, sanno di chiuso, sanno di... E poi nel caso, anche se uno povero le compra, le deve prima lavare bene e metterci pure la mucchina quando le lava, perché appunto non sai di chi erano. Magari erano di qualcuno con la scabbia o la tubercolosi e te l'attacca a te, mamma mia. Ok, fra poco si mangia, quindi mangiavo pizza così, roba non impegnativa, dai. Riprendi Antonio. Mangia la pizza, senti tutto, mi mangia la pizza, vai a casa sua, ti dica compagno. Sono gli freghi la pizza adesso, stanotte con la pizza te la rompete. Voce Antone. E come senti? Stavo parlando con Tommy, ero vicino al microfono, ho detto che Tommy qua vicino, gli stavo dicendo che lì si metto più di pizza stanotte, così vado e la ritiro per lui, gli ho detto, invece ha detto non si muove perché ho fatto la doccia, l'ho profumato e ho offeso. Ciao Claudio, è da Portobello, non hai mai visto quelle scarpe da donna, da zingara che vendono, usate che c'è da chi, ma proprio sono le scarpe che mettono le zingare, mi, che schifo, ma sfido io una donna a comprarsi quelle scarpe. Ma senti, se c'è la mondezza, Marco, c'hanno mondezza, tutti c'hanno mondezza, tutti, capito? Portobello qualcosa che riesce a prendere bene sono mobili, mobili, capito? Mobili usati, ben tenuti e vendibili, vendibili. Qualche volta addirittura ci sono anche mobili nuovi di aziende che hanno cessato l'attività e che la danno a loro per vendere ad un prezzo bassissimo, capito? Per recuperare i soldi di quello che è rimasto in magazzino. Ma tutto il resto è mondezza, mondezza Marco, mondezza, l'unico veramente bello dove puoi entrare con decoro e con pulizia e tutto è quello di Gianfranco San Marcando, perché l'ho visto veramente molto molto bello, tutto in ordine, tutto etichettato, tutto ben ordinato e non ha mondezza, capito? Perché ho detto lui, io mondezza che non ne compro da nessuno, non ne voglio da nessuno, perché rimane lì ed è una cosa che poi è brutta anche da vedere, la roba che si può vendere, la roba insomma, allora sì, allora sì, a quei servizi, insomma, anche per cucina, ultimamente c'era una bella batteria da cucina, nuova, nuova, diciamo mai usata, capito? Però dico, cose nuove, belline, dove puoi veramente toccare con mano, ma lì c'è mondezza, mi fa schifo, io non sono più andato a Portobello, mai, mai, mai, mai, mai. Ripeto, mi sono trovato lì per caso, perché stavo lì dai cinesi a fianco e stavo cercando un decoro e quindi sono entrato a dare un'occhiata che poi non ho manco trovato, c'era qualche decoro ma non era quello che volevo io, capito? Ma ho visto che c'era mondezza, mondezza, non le viste quelle macchine da caffè di quelle serie vecchie, ancora telefoni per casa, di quelli della SIP, di quelli SIP proprio, e SIP, capito? Non telecom, SIP. Tu immaginate di cant'anni vanno i telefoni. Via. Quindi al massimo vanno, le puoi usare come soprammobile. Per esempio io avevo un vecchio telefono della SIP, o cosa era, non lo so, di color panna più o meno, no? Io ho tagliato i cavi e lo uso come soprammobile in camera da pranzo. È un oggetto di antiquariato, lo puoi usare, ma perché tanto ormai non servono più, ormai tutte le linee le stanno facendo digitali, quindi non funzionano proprio quei telefoni. Io mi ricordo che quando Portobello era a Monte Bianchino, lì, no? Non so se è presente, vicino a te. E una volta abbiamo aperto un frigorifero, io credo di trovarlo pulito, dentro c'era un piccolo strato di acqua putrida, una puzza, uno schifo, cioè come gli hanno portato l'acqua putrida l'hanno lasciato. San Semplicio era, San Semplicio era il teatro, capito, era l'unico, lì hanno fatto i soldi, hanno iniziato a montarsi la testa, poi i capannoni a destra e a sinistra e c'era guasta voce che si trasloca. Lui lascia aperto, io ci andavo, quando era a San Semplicio ci andavo sempre con la buona maestra dell'AI, sempre, io porto bene, ma non rompi di rifiato, dico porto bene, io vorrei cosa c'è, anche perché il padrone, il vecchio però, che è morto, era un carissimo amico di Toro, e quindi, capito, per andare a trovare lui si buttava pure a me, ero sempre con Toro, ero sempre con Toro, io uscivo moltissimo con Toro, sia io, Gianfranco, capito? E quindi mi portava lì, a San Semplicio, lì iniziati e poi sono trasferiti a Predanieta, ma hanno iniziato a portare Mondetta a tutto andare. Sì, sì, San Simplicio, non mi veniva il nome giusto. Eia. Vabbè, però certe cose non sono da accettare, dai. Poi hanno anche televisorini portatili, quelli, sai, ti ricordi quei televisori radio da attaccare ai accendisigari, che sono in bianco e nero, che sono analogici, ormai non te ne fai nulla. Forse per soprammobile te lo puoi tenere, ma niente di più. Ok, riprendi Antone, dai, qua è arrivata la pappa, quindi per un po' mi assento. Su computer sembra trovare un negozio di, come si chiama, numismatica di monete antiche, se non è voluta, se sta a vendere è qualcosa, cerco di recuperare monete antiche, adesso vediamo. Ah, poi una cosa, Claudio e Antonello, quando da Portobello arriva roba veramente buona, veramente ottima, roba buona, roba nuova, tipo negozi che hanno fallito, la roba buona se la vendono subito, subito, perché c'è gente che va sistematicamente tutti i giorni da Portobello. C'era un ex collega di mamma che con la moglie era tutti i giorni da Portobello, tu andavi in qualsiasi giorno della settimana, lui, che tu andassi la mattina o la sera, lui era lì con la moglie aspettando offerte. Cazzo, ma quando mai uno deve vivere di roba usata? Vabbè, comunque quella è la morale, la roba buona la vendono all'istante, la Mondetta la lasciano. Sì, ce lo so, ma infatti mobili di aziende che hanno chiuso, hanno cessato l'attività, e vendono subito perché sono già tutti d'accordo, capito? Quindi c'hanno subito l'acquirente, capito? Uno di quei televisori lì da 6 pollici, a colori però, ce l'ho anche io dentro l'armadio, nuovo, che mi aveva dato proprio la buona anima di Torre, non lo farò mai, è sempre dentro l'armadio, capito? Quello c'ha tutti gli attacchi, c'ha tutto, c'è anche l'attacco al contrario, praticamente presa a scarpe, spinotto, adattatore, per attaccare il decoro esterno, figurati tu, capito? È della Inuit, non l'aveva dato Torre, se lei ha colori, è un 6 pollici, però è sempre dentro l'armadio. Però di qui glielo sai quanti ne avevano loro, e se l'attaccano a io voglio dire ne vado. Io quello lo usavo come radio, perché sente molto bene la radio, capito? E lo usavo come radio, e poi invece l'ho messo a parte dentro l'armadio. E vabbè, lasciamo perdere. Scusate che sto mangiando, dai, mi ascolto. Mangia, tanto me lo sta guardando il computer, io già sono qua. C'è anche Natalino che sta formattando il computer anche lui. L'importante è che ci siamo, fatte già sono qua. Di nuovo, Natali, ancora problemi ti ha dato il computer? Oh già, ho dovuto formattare tutto. Sto facendo gli aggiornamenti, cazzo. Me ne ha caricato 200 più altri 29 là. Purtroppo è così, perché tutti gli aggiornamenti del sistema operativo, una volta informato, li deve scaricare da capo. Una volta il mio, quello fisso, c'è stato tutta la sera scaricando aggiornamenti di internet, di Windows. E allora, non è quello il rompimento di balle, che a mettere il sistema operativo ci metto 5 minuti. Guarda, il computer è utile, ma certe volte è una dannazione, perciò io per non dannarmi la do al tecnico e si arrangia Edu e si danna lui. Ma cosa canto di media una formata e a fare i vecchi sul gravaglio? Non me lo ricordo, Natalia. Io da secoli che non ne porto uno. Poi, a parte Windows, ci vogliono i driver di tutte le periferiche. E cioè ci vuole il driver della scheda video, il driver della scheda audio, il driver del modem, insomma di tutte le periferiche, del CD-ROM, è un casino. Porto bene io, ragazzo, come te, computer, yeah. Io guarda, c'avevo quel problema, l'ho comprato nuovo, e per Luca, io trovavo un computer, me ne ha trovato uno, capite? Ma non me ne fotti nulla, c'è come c'è la roba. Hai altre cose a cui c'è. Guarda, io ho avuto il primo computer nel 2000. Ed era un Windows 98 il sistema operativo, adatto a un bel di grattacapi. Io per imparare a usare il sistema operativo, perché volevo saperne qualcosa di più, avevo comprato un libro, un bel libro, intitolato Il mio primo computer. E io ci avevo aggiunto col pennarello, il mio primo e ultimo computer, perché mi avevo fatto arrangiare troppo. E sai da chi l'avevo preso? Da amici. Il primo computer è stato preso da amici ed era una formidabile inculata, perché c'aveva mille problemi. No, io ho iniziato nel 93, mi pare, no? 95, adesso mi ricordo, col Commodore 64, figurati. Allora usavamo anche il Packet e la PRS e quindi avevo quello, mi aveva fatto tutto il sistema operativo Marco e ha sempre funzionato, sempre, poi abbiamo lavorato un po' tutto, capito? Però questo vecchio, anche l'altro l'avevo preso da Franco Delta 1, tutto nuovo da negozio, ma si è impallinato, ce n'è poco di roba, non c'è niente il computer lì, vuole pulito, formattato e funzionante, perché a volte funziona, a volte non funziona, capito? Allora avevo rotto le scatole e l'ho comprato nuovo, ho preso tutto nuovo, monitor, tastiera e computer, mi ha fatto avere tutto da Lenovo. E boh, io vabbè, così è, mangia, sennò poi sputti il microfono. Se no mi strozzo pure. Oltre che ti strozzi poi sputti il microfono, viene il gatto, te lo vai, è un casino. Oh, una volta, Claudio, una volta uno ha messo a posto il microfono di Paoletto, no? Perché non so cosa c'era, un filettino, l'ha dovuto aprire, ma tu dentro quella capsula ci hai trovato di tutto, residui di baba, pezzettini di mortadella, uno schifo. Tutti, va bene, non male dire, ma questo fumato la sigaretta, che schifo, guarda, pucci. No, io non ho mai comprato, diciamo, roba usata, quelli vedi, proprio assolutamente. Vabbè, io mi chiamo da Parma, non ne ho mai usato, ne uso forse uno, quello del veicolare UU, che è trovato dentro l'armadio, perché i due base della ICO hanno l'SM20 da tavolo, quindi non ne uso. Questo c'è il MC60, 430 c'è il V60, quello della Icom c'è lo stesso l'SM20, e quello della IESU c'è l'MD1B8, tutti da tavolo, quindi non mi piace una cosa sputtata dagli altri, capito? Per non parlare di altri fluidi organici di Paoletto, lasciamo perdere. Una volta da Portobello avevo visto un computer in vendita, no? Una torre, diciamo, no? C'era anche il padrone vicino, era un po' aperto, no? Ho tolto la parete laterale per vedere cosa c'era dentro. Praticamente gli ha tolto l'hard disk, la RAM, la scheda video, alla fine stava venendo una scatola vuota. Come è stata la volta? È vero che si stava anche buriando perché stavo maneggiando il computer. Stavo per dire, ma non vedi che è vuoto, cosa stai vendendo? Un computer è quello. Quello è un cassone vuoto. È roba da matti. Il computer si vende intero, casomai li formati tutto in modo che non, nessuno veda le tue foto, le tue cose personali, le password. Ma venderlo tutto svuotato, cosa la gente è matta. E il case del computer stava vendendo il boh. E molta gente fa della ruiba, capito? Ma poi fanno poca strada. No, io mai più, io dalla volta, io Salvatore Maestrale, Gianni, avevo preso quella regolata con i Galaxy, per carità. Allucinante, ci avevano fatto vedere la foto, residui di magazzino, nuovi, il prezzo era interessante. sacco di mondezza in giro, ma mondezza baromi, come l'ultima, è già un po' di anni che mi avevo mandato di radio HF, ha durato 6 mesi, ne attendia più e ne nuda, per carità. Gianni mi aveva accennato che aveva preso una formidabile fregatura, ma non la denuncetta, non l'avete fatta per truffa. L'importante è farla, così se questo truffa altra gente, le denunce si moltiplicano e prima o poi lo vanno a cercare. Sì, avevamo aperto denunce a tutte, però non so poi come era andata. Assolutamente, ma io da solo ne ho preso una di botta, una botta però 5 anni fa con un TS 2000, mi avevo detto amico, come no, fiato del tetto qui e là, il prezzo era interessante, era TS 2000, era una bella macchina, io l'avevo comprata nuova alla fiera di Milano, l'avevo pagata allora 2700 euro senza la scheda, 1200 UHF 50 50 mega HF 50 mega praticamente VU, capito? L'avevo venduta per comprare i due gemellini, perché a me è una radio che fa tutto, non fa niente, non mi interessa, l'avevo comprata tante in HF, non la usavo, la usavo in VU, un'altra cosa me ne vuoi, ho detto la vera, ma l'ho venduta e mi sono comprato i due gemellini della Icon 275 e 475H e niente, poi l'ho rivista, ho detto caspita, 800 euro TS 2000, bella la foto, girata, l'ho fatta, ho contattato questo qua, balle varie, insomma, Marco Nessano, faccio il bonifico di 800 euro, Marco, guarda tu la provincia di Napoli, guarda tu, hanno il peso e poi la scatola derivata, tutto sembra il peso c'è, quello c'è, la grandezza c'è, tutto calcolato, era pieno di 4 mattonelli verani dentro. Io guarda già come vedo io Napoli e provincia, passa via, proprio sono fatti per fregare, deve essere genetica la cosa però, deve essere una cosa genetica. Vabbè, ma tu non potevi saperlo, poi ti mettono, bello che ti mettono le foto belle, perché le pigliano da internet, capito, te lo fanno vedere magari acceso, collegato, no? I truffatori da San Lunga, guarda, ce n'era uno che truffava da poco, truffava sia in un negozio fittizio che aveva, c'è un negozio, lui tu andavi lì e dicevi mi ordini questo televisore, lui si pigliava i soldi, il televisore non ne vedevi e tutto il resto, più truffava online, vendeva apparecchi amatoriali a prezzi ottimi, magari era pure lui, mi cosa ne so, si metteva le foto di internet, però ne prendeva una a caso di un apparecchio X, tu dice bello nuovo, poi pagavi, perché ovviamente chiedeva il pagamento anticipato, capito, non era tipo contrassegno, una volta presi i soldi sparito, cambiava il telefono, aspetta, come si chiamava, Caiffa, Antonio Caiffa, ed era un truffatore seriale, ma seriale, aveva decine se non centinaia di denunce, alla fine l'hanno arrestato, ma tanto quello come esce continua, ricomincia a capo, non gliene frega niente, non temono nulla. Io ho fatto tutto, però la postale mi ha detto che era molto difficile, insomma, invece poi siccome fortunatamente era un bonifico bancario, quindi ero riuscito a recuperare l'85%, insomma avevo perso 350 euro, quasi 200 euro, 180 euro, tra spese e tutto, ho riuscito a recuperare i soldi, se no guai, e infatti ho detto boh, mai più, non me la fotti una sera a volte, io vado spesso su eBay a vedere, sono cose molto interessanti, radio, anche l'altro giorno ho visto qualcosa, ma non mi attira proprio, assolutamente, non mi attira proprio, nulla, anche un'altra volta avevo comprato un MC60, il prezzo YouTube 60 euro, questo MC60 mi va troppo bogo, la vendita MC60 è intorno agli 80, 90 di così se lo provo, funziona, siamo appunto la capsula originale, capite? Ah, vai, vai. Lo so, guarda, comprare nuovo è... è come giocare la roulette russa, mi, come mettere un proiettile nel revolver, fare girare il tamburo e premere il grilletto, te la punti alla testa, quello è comprare l'usato. Io perché mi sono tolto il cibo da bocca per comprare quegli apparecchi nuovi, perché sapevo che con usato potrò trovare delle cantonate. Magari apparecchi anche buoni, ma sai, con qualche piccolo difetto non rivelato. Per esempio, quando Eugenio era interessato a quell'apparecchio lì, no, col frequenziometro, io gli ho detto, guarda, questo saltuariamente, raramente, ogni tanto si spegne. Cioè, vai a accendere o non accendere, gli dai un colpetto, e quindi sicuramente c'è una saldatura fredda. E poi ho detto, manda a terra, le riceve, le ricezioni leggermente vibrate. Questo di fabbrica è, di fabbrica è uscito così. Sì, col clarifier c'entra la persona, però senti, la voce è leggermente vibrata. Ah, tutto lì, però glielo specificate le magagne, capito? Invece molti dicono, perfetto, poi anche venditori seri, tipo, adesso non voglio essere molto, tipo Montagnani, no? Con quella scheda, cosa c'avevi tu, una scheda audio difettosa, mi pare mi avessi detto, che non te l'avevo manco cambiata, figurati. E quindi io quella volta mi ero veramente tolto il pane da bocca, mi, per pigliare quell'apparecchio che adesso ho a pomponio. Ma tornando indietro, mai più, non lo rifarei, non lo rifarei, è stata proprio una... Il passo più lungo della gamba l'avevo già messo anche pochi giorni dopo. Quando ci penso, guarda, proprio la pazzia mia è stata. Vabbè, passi l'8008, quello sai, costa meno. Secondo me come va me lo faccio fuori, tanto non lo uso più. Io l'ho usato per sperimentare, poi non me ne faccio nulla, a me piace la 27. Vabbè, per sperimentare si possono fare tante cose, l'importante è poi non approfittare. Diego vuole entrare avanti. Buonasera, tipo passaggio a Falcone, Marco. Buonasera. Ciao lui, beh, ogni tanto devo fare qualche passaggio più lungo, se no io non sono tipo da passaggi lunghi, anzi dico due cosette e poi mollo. Ah, sto scherzando, no, sono entrato qua, adesso c'è un baracchio, vediamo un po' chi c'è, che di solito non c'è mai nessuno, poi sono un po' di giorni che lo accendo, un bel po' di giorni. Mi ho sentito, sono entrato a salutarvi, da casa vado a fare appunto la mamma, e poi me ne vado a cenare. Ciao Gabriele, ero lì, io sono entrato ieri, sono sempre fuori al lavoro, quindi no, sono entrato ieri, ho fatto due chiacchiere già ieri, ma ero forse un mesetto, una ventina di giorni che non accendevo niente, e rientrando tardi, con chi sono gallo qua in stanza, c'erano sempre 25-28 gradi, cosa c'è, non ho abusato, quindi c'è fresco, allora gli riesci a fare due chiacchiere. Ciao, ben sentito. Buonasera, c'è anche Antonello, mi pare, poi c'è Natalino che non so cosa sta facendo al computer. Antonello, mi sei? Vabbè dai, riprendo io, no vabbè, io accendo, non c'è nessuno, ma sono propagazioni che a me poi non me ne frega più, i tempi miei ormai sono quelli che sono, e vabbè, comunque c'ho una Manto V1 da rigenerare, mancano i radiali, vuole un po' pulita, ma sembra in ultimo stato. Radiali, ma i fori sono buoni? No, radiali non ce n'è proprio, no, sono rotti proprio, ci sono i pezzi dentro, vogliono levati con il coso, con il trappano, ecco. Quello è un lavoraccio, mamma mia, un lavoraccio, lì bisogna... Un'officinetta messa nella morsa piano piano, perché se poi rompi, quello è alluminio, capito, quel pezzo dove mantiene il radiale, quindi bisogna andarci con una punta piccola piano piano, fare un bel lavoro, perché se rompi quello girerà anche l'antenna, capito? E vabbè, tieni la riscorta, il piantone è sempre utile, capito, perché quello che poi può servire è sempre il piantone. Sì, no, vai tranquillo, i giorni di Bucucla, tranquillo, ci vuole una punta piccola. Mano a mano si consuma, già non è fredda, l'avevo già fatto una volta. Già la metto a posto, poi mi comprerò dei radiali in alluminio, come ho fatto a Gianni, li buco e faccio passare parte in parte, oppure niente, lo blocco così, tanto i bulloni sono originali, ci sono quelli per bloccare i radiali, ed è buona, capito? Boh, ci vuole una pulitina, messa le fascette nuove, tanto tagliata non è tagliata, praticamente non esce il pezzo che va a innestare lì diciamo tutto il mozzo. Sì, vabbè, ce lo lasci, comunque che devi mettere? Non devi modificare niente, anziché mettere le fibra nello stesso foro dove tu poi vai a stringere, vai a becco e compri l'alluminio di quella dimensione lì che entra lì dentro, capito? Gli metti fini senza fare nessuna modifica, c'è l'alluminio fine, tranquillo, ne metti quelli, la vetina sotto, passante che blocchi bene l'alluminio, i tappini in testa che sono quelli delle sedie che ci sono quei tappini anche delle antenne, già li vendono, c'è un bel lavoro, c'è un'antenna nuova, non lo fa. Da quanto sono i radiali della Mantova? Ah, dovrebbe essere 1,20 m mi pare, una cosa del genere. Ma li controllerò su internet. Vabbè, adesso uno di questi giorni, domani, lunedì me la porto fuori, tanto come sono il cappuccino, e niente, una pulitina leggera, con la carta vetrata, questo per levare un po' di uso da sopra, poi mi guardo contro il connettore del PL, mi sa che è un po' ossidato, ma penso che funzioni. Quella di Ottavio era, cioè deceduto lui, no? Ci ha buttato tutto la moglie, ma ha detto baracchini, alimentatori, aveva un po' di roba, tutto l'altro parco ci ha buttato. E te lo poteva dire a me, e dopo me la sono ricordata, mi ha detto. E chi? La moglie di signor Ottavio. Ah, Ottavio, quello col vocione. Quello che stava vicino a casa mia, io. Mi è morto un paio di mesi fa. L'altro parco ce l'ha buttato. Gli altri ce l'hanno. Si è svegliato in chi, di come arriva roba di quel genere lì, vabbè, comunque no, lui la misurata l'ho precisa perché io ne ce li ho i radiali della Mantova, capito? Però sono quelli in fibra e oramai la fibra non te li do perché è consumata, capito? È resina quella e non va bene, non va bene, sì, è tutta polverizzata, però la misura la prendo da lì, giusta e compri l'alluminio fine della stessa dimensione, col calibro te la misuro, capito, l'innesto giusto e si fa un bel lavoro, viene un bel lavoro, lo dici, lo facciamo assieme, non ce n'è problema. Guarda che quelli che c'hai tu sono rovinati, una lebrigatina la carta vetrata, poi gli dai un fondo sopra, ma è tranquillo che lui riprende a funzionare e non ti dà problemi, che si può fare? Ciò abbiamo un amico carrozziere che me li fa, ma no, non c'è bisogno del carrozziere, però una lebrigatina gli dai un fondo sopra, te lo fai asciugare e così non ti pungi. Sì, ma qui c'è Roberto, ma cosa fa Roberto? Non è un problema, allora già ce l'abbiamo radiato. Non ci sono i radiali, non ti preoccupare, cerca di togliere i cosi e poi fammi sapere. Sì, vabbè, dai, che sono già quella la metà rompendo le balle, mamma bacca di dai, guarda. Ogni cosa si abbia, ogni cosa, chi fermi, bacca di Marco, statene solo, guarda, è un consiglio a chi non è conti di tu, pensali a niente, poi io pensavo, ma non è così. Perché chi c'è in mezzo lo sa, Claudio già ne ha esperienza, non so i fatti suoi, però Claudio già ne ha esperienza, anche troppa. Vabbè dai, alla prossima, mi ha fatto piacere avervi ascoltato, alla prossima, ciao. Sì, magari te già la conosci Anna, la conosci bene, quindi Anna non è stata 40 anni conmigo, se fosse stata a rompere balle, perché già sono io a rompere balle, quindi lui già è tranquilla e serena, perciò però la convivenza o ci si sopporta a vicenda, si va d'accordo, altrimenti è meglio vivere da solo. Ciao Lucaria, saluta mamma, dai. alla tua signorina. Ci sentiamo alle prossime, fammi sapere. Vai Marco. Sì, allora, tutto contraccambiato, salutami Anna. Ciao Marco, riprendi tu, ciao. Ciao, ciao. Io te l'appoggio, amico. Ecco tu buco. Procurami un PTT, pompo, di un MB+4. Adesso questo qua, se ne sta giovane, a farsi benedire. Sei arrivato tardi, caro mio. Già la dica la gioventù dove si microfono. Ah, mi dicevi un PTT, non un microfono. Non è che mi compareci un microfono nuovo, ma facciamo un PTT, no? Praticamente si è rotto quel violino che va in casa con quel coso di plastica. Essendo più corto, perché si è spezzato, il PTT rimane un po' sceso, capito? Vabbè, se non rimedi fammi sapere, dai. Già ti do 500 euro, ciao. Magari, stai facendo i soldi in casa ogni giorno vendendo tablet, computer, cazzo. Sembra un negozio viaggiante sembri, cazzo. Beato te che stai incassando un sacco di soldi. Sì, due li ho venduti, due fissi, adesso ne ho tre portatili, che mi sono rimo nel regalo. Ma niente, vabbè, ciao, cara, riprendi tu, ciao. Già che funziona così, tu. A regalo ci viene la gente, niente di robot, a comprare nulla. Ciao, Gabriele, un abbraccio, fate sentire, dai. Marco, parato, dici, ma mi stai attraverso che è andata, mia Antonè. Lasciamo mangiare, che tranquillo, Marco, Io lo vengo là, ci guarda, se da sbracciare. Il bello è quello che tutti lo vogliono un regalo. Quindi, a un certo punto, sono lì in garage e basta, componenti elettronici, quello che è. Anzi, facciamo mettere le valvole qua, le lineare, quelle se le vogliono le pagano, se no si attaccano da fusaro. Basta con le valvole, io non questi cattori che c'ho io, HF 030, no, mi interessa. 030, 10, 15, 20, 40, 80, il buco. Però 27 giorni vai. Dopo 39 volte a radio, non voglio. Già va bene. E il DAC, c'è un po' più watt, una decina di watt, ma non lo uso mai. Quella è una bestia, mi ha ragione di baracchino, Sant'Antonio mio. Ma che ore sono? 7:30 già sono. Ehi, 13 minuti. E poi vai a portare il cane, dai, che c'è fresco e si sta bene. Oh, sono rientrato, ma chiama tua mamma un attimo. Chi è che chiama? Antonello? Non lo so, c'è uno che ha chiamato, Marco. Sembrava Antonello di Orsi, no? A me mi sembrava di no. Avanti chiama Marco, chi è? Non so chi è. Chi è che chiama Marco, avanti? Ciao, Maria, buono, entra, fermo, Fili, mamma mia, sempre leccando i piedi, ragazzi. Il cane è un pitbull, un cane da lecca, attavi! Lascialo fare il cane. Guarda, quando io gli presento al cane, quello che ho io, l'asciugamano e lo shampoo fugge. Lo shampoo? Sì, perché sai che devo fargli la doccia, non per altro. Tanto è un attimo un cane da lecca, vero, Filippo ne ha l'inghita a fare Beethoven. Ma è mio diverso il cane, mio l'acqua non la può vedere e quindi bisogna tentarlo, hai capito? Alle 7 alle 8:30 e incomincia a rompermi le palle, vuole scendere giù a fare la pipì con la ragione, poi la notte piglia mi piscia lo stesso in casa, quindi a un certo punto se la prende in culo. No, Filippo, quando lo porto la Monica giù che a passo lì a Pellolindo, si trova, io già, mi piace un bell'acqua, da piccolino quando lo lavavo io a casa, capito? Adesso però è grande, quindi no, non fa più, cosa c'è? E uscire vuole, sono le 7:30. Beh raga, io mi allontano, ci sentiamo dopo se ci siete, rimanete qua. Sì, va bene, ti aspettiamo qua, non ti preoccupare. Vai dove devi andare, non c'è problema. Non fate musicare con il cartoccale. A Filippo, ma toccare giù a Filippo. Quando a Filippo cambiamo marciapiede. Ah, meglio così, allora. Ok. Mi fate un c'hai un po' di oro in mezzo, se no ti musicano i rumini. Ma lì ha visto un regalo. c'era a capo dell'etto che ha solito la modetta tra me e con i piedi fuori, ma non mai ce l'aveva quel taglio, se no ne aveva mai, ne avrebbe preso per i piedi, l'avrebbe tirato. Fatto, sto dicendo che sono adesso, fanno il giro dalle 5 alle 8 e mezzo, fanno il giro dei cassonetti, è un furgone bianco, controlla tutti i cassonetti, ci sia roba dentro, quindi per questo sto dicendo, quindi sta attento, non sia che magari ti mostra qualche rumeno, e tu ti muovi dentro. Sì, chi c'è, mani di moglie, chi mi fa, adesso domani con un furgone bianco, c'è un ducato bianco, tu mi conosci. Cissio, che tu lì è una cosa allucinante, ci mette la testa dentro i cassetti della mondetta. La vita Filippo, qui mi la facendo, ma non la cervella. Se era senza guinzaglio, le ne avrei cadenato e te l'avrei accuttato dentro un cassonetto. Scusa, ho visto, è un mese fa fa. Quindi ormai sul giro che fanno, quindi non mi hai fatto più niente per andare a cercare se c'è roba dentro, non me la fotti più nulla, tanto passo loro, anzi mi danno aiuto più che altro, se c'è roba da buttare mi dà il garage, ce la metto lì, sono orari ormai, dalle 6 alle 7 passano loro, ma se manco la massa gara del comune, passano loro, si possono via la roba, non ci rimane nulla. Aspetta che schifo che fanno, non ci vuole sai niente, pucci. Va bene Tony, dai, ci sentiamo dopo. C'è Marco, c'è anche Gio, vabbè, c'è anche Antonino ancora, dai. Io vado a portare il cane e poi ci sentiamo. Ciao a tutti. E io, ciao a dopo, dai. Esco anch'io 5 minuti, poi ci sentiamo dopo. E io, a dopo. E Londra, anche Luca, chiuso a Luca. Non intendi, no? Luca è milionario. Non hai capito, Luca è milionario, ma è aperto un negozio e quindi è milionario. E che negozio è? Di parrucche. Un negozio di parrucche? Vedi, oggi sta così bene con questo fresco. Anche ieri, bello ventilato. Ci voleva perché troppo caldo sono. Chiedo di là a me, a tutti dimmi, è un caldo notte da crepare. Oggi mi ha mangiato il conte, meno male, ha fatto una bella cagata, quasi 3 kg e mezzo di merda ha fatta. Ah, perché l'hai anche pesata? Sì, ce lo credo, ci ho buttato via anche il coso, il lenzuolo. Una settimana non cava un tubo, mangiava, non cava niente, gli faceva di tutto, pasta, pizzette, cose del genere, hai capito? Poi quando ho messo 4-5 giorni a dieta, tra verdura, frutta e cose del genere, si stava lamentando, ha detto che lui non aveva pecora. Insomma, eri costipato tu. Chi ha detto che non è una pecora? Tuo fratello? Allora, ha detto lui non è una pecora, non voleva niente adesso. Non mangiare, ha detto cosa me ne frega. Questa mattina non mangio il suo gatto, adesso stasera, oggi mi dava solo la pasta, mattina. Stasera c'è la pizzetta, poi domani gli do qualcos'altro da mangiare. Ma Iana non gli piace, prima mangiava le fettine, le pizzette e cose del genere, non le mangia più. Ma dammi anche il pollo arrosto. Oh, ha cambiato anche i gusti. Comunque un po' troppo monello è tuo fratello, contando che, insomma, sa di dover dipendere dai familiari. Ma monello forte però, non monello appena, monello forte. Qua stanno trapanando a tutto andare, non so da dove arrivi. Sento trapanare, ecco, trapano. Allora digli, se non vuoi mangiare, non mangiare, peggio batte. Digli, mangia gli spinaci che diventi come un braccio di ferro. Io ho dato gli spinaci, anzi io ho mangiato gli spinaci una volta, mamma mia, per carità, guarda. Che schifo. Ma fate come? Perché anch'io non li mangio, mangio solo fatti con l'uovo a frittata, tipo le verdure, io le mangio poco, e invece se mi fai la frittata di verdure, sai, con le uova, no? Allora la mangio, così gli spinaci. tipo girello sono, capito? Non sapevo da, cioè, cosa c'era fuori, non so se la carne o la diavolo era, comunque c'era la spinaccia al centro e poi c'era il contorno intorno, fatto tipo girella. Nattalino, hai risolto? Ehi, ho risolto. Mi appento però, E quando comincia a dare... Ma come mai hai dovuto formattare di nuovo? Cosa stava dando? Problemi di stabilità? Non funzionava o cosa? O virus? No, non credo virus. No, ho fatto uno sbaglio io. Capito. Ah, capito. A me ero del sedere che c'ho... quel computer fermo. Come si chiama? La torre, mi, come vuoi chiamarlo, con XP potevo acquisire video dalla videocamera, sia quella 8 mm che mini DV, potevo acquisire video, mannaggia, poi che adesso li mettevo su YouTube, invece adesso i filmati di YouTube li posso fare esclusivamente con lo smartphone, che però non ha lo zoom, non ha tutte quelle funzioni che ha la videocamera vera e propria. Ho capito. Ma perché non ce lo metti a posto? Sì, sai cos'è, spendo soldi in fesserie e non l'ho ancora messo a posto. Credo che sia partita la scheda video, spero che sia solo quella. Perché forse ne busco una. Perché il computer è vecchio del 2004 e quindi ci vuole una scheda video di quegli anni. Cos'è che devi buscare, Marco? Una scheda video adatta alla scheda madre. Scheda video? La scheda video non ce l'ho. Guarda, ho un altro computer gemello che è fermo da molto perché c'aveva problemi più gravi. Da lì posso togliere la RAM, la scheda video spero sia compatibile perché il problema sarebbe risolto. Lo posso, com'è che si dice, cannibalizzare, capito? Tolgo scheda video, processore, me lo tengo così, magari serve a qualcuno, posso rivenderlo, regalarlo anche. Che buttarlo preferisco allora staccare il PC, il lettore floppy, sai? Vabbè, ciombe di floppy ancora, non li ho mai riversati perché è troppo lunga la cosa da fare, riversarli su CD, e allora me li tengo così, c'ho un lettore di floppy esterno per il computer portatile, roba antica a me perché il floppy già non si usa da un bel po'. Vabbè, lo so. Ormai ho le chiavette e sono un bijou. Da poco ne ho preso una da forse 32 giga e non l'ho manco usata alla fine perché gira gira mi bastava l'altra e vabbè la sfrutterò. Maledetti siano questi computer. Comunque io c'ho dei banchi di RAM se ti possono servire, un processore, un masterizzatore, un lettore di DVD, penso, ma forse ce l'ho la scheda video se va bene, ma PCI è la tua? Che domanda mi hai fatto, boh, non so nemmeno la velocità di bus, perché c'è anche una velocità con cui comunica con le altre periferiche, non lo so, quello se ne occupa il tecnico, come dice qualcuno, tecnico con due N. Guarda che ti piglia una barca di soldi. No, ma io non lo so fare, mi sono sempre rifiutato di imparare a farlo, perché è una cosa che rompe troppo le palle, invece tecnico lo paga e almeno si danna l'anima a lui, capito? Comunque fermo da parecchio quel computer, vabbè parecchio, l'antivirus sarà andato perché non è più aggiornabile dopo un certo periodo. Beh, vediamo dai, prossima volta che ho un po' di soldi vediamo se è salvabile e se no pazienza, lo smonto tutto e tengo le RAM se serve a qualcuno, sai, per computer vecchi. Che tipo di RAM c'ha? Io ho anche la DDR2 800, ne ho 2 giga, perché io me ne ho messo due bacchette da 2 qua, infatti il mio è 64 bit, è una scheda. No, quelle sono schede RAM, mi pare la velocità del bus è tipo 333 e sono da 512. È roba obsoleta tanta lì. Anche quelle c'ho, da 512, ne ho due bacchette lì, quelle lì. Via. Caspita, mi sa che davvero quel computer vecchio, non quello che l'avevo proprio andato, li tolgo tutto, anche le ventole, me le uso sull'apparecchio che scalda. Tolgo l'alimentatore, può servire, tutto tolgo. Vabbè, ormai masterizzare non masterizzo più, Natalì, non ha senso masterizzare. I film prima masterizzavo, ma ormai che senso ha? I film me li metto su chiavetta, è molto più pratico. Lo so, io ho le due porte davanti qua, ci attacco la chiavetta, tac, e posso di su di voi. Poi se serve più spazio c'è l'hard disk esterno, quello è un bijou, ci puoi mettere migliaia di foto, di video. Capito? Così non occupi il computer, no, e lo lasci libero. È anche più veloce quando ha meno roba. E infatti io non ci metto niente, c'ho anche un disco esterno USB dove posso mettere quello che voglio, da 5 io le hard disk esterni le avevo presi della Lacie, scritto Lacie, non so come si pronunci. Avevo il primo, era da 500 giga, lo usavo intorno al 2006-2008, il secondo sempre della stessa marca, da 1 terabyte, quindi 1000 giga, ancora me ne rimane un bel po', perché tanto poi i CD danno problemi, dopo pochi anni della masterizzazione non sono più leggibili, è uno schifo. È una fregatura lo stato del masterizzatore. Ma molte volte devo fare qualche CD a mia moglie o DVD e lo devo usare. Ma perché voi lettore non ce l'avete più? Non avete lettori DVD con l'ingresso per la schedina, per le chiavette USB, no? Io ho due ingressi per le chiavette USB davanti, poi c'ho il lettore di scheda, pure la scheda della macchina fotografica mi legge. Sì. Sai cos'è? Per esempio i CD, io lettore CD non ne ho più, è superato anche quello. I lettori di musica, cioè quelli lettori a chiavetta, no? Che hanno display LCD piccolini, e scientemente le cuffie ci sono, stanno un bel di brani. Quindi il CD è superato, lo stesso è per i DVD. Il film, te l'ho detto, li metto su chiavetta, me li guardo col... è un lettore DVD che in più ha l'ingresso chiavetta USB. È troppo una palla questo del DVD, obsoleto, dai, una tecnologia anche vecchia, mi. Il mio addirittura c'ha l'attacco per il masterizzatore, SATA, è velocissimo. Ah, serie all'atta, sì. Aspetta che faccio il filo del discorso, poi Antonio già ti rilancio. Cos'altro volevo dire? Sai qual è il problema di questi CD-ROM masterizzatori? Perché hanno sempre parti in movimento, il LED che prima o poi si esaurisce o si sporca la lente. E lo stesso è per i cosimi, per gli hard disk. Gli hard disk hanno parte in movimento, sono soggetti a rotture. Adesso hanno inventato, infatti, al posto dell'hard disk verrà sostituito fra qualche anno, e gli SSD, che non sono altro che unità di memoria allo stato solido, come sono le chiavette, però molto grandi. Ed è, dice, molto più veloce dell'hard disk come accesso. L'importante è che siano affidabili, perché adesso sono ancora rari. Però gli hard disk spariranno e ci sarà tutto memoria allo stato solido. io mi, a me conviene aspettare e pigliare un computer super moderno quando potrò. E se no, se lo costruisci la tower, ce l'hai, ti compri una scheda, cazzo, te lo fai tu, ti compri quelli all'effetto solido che si sono già, li ho visti, e ci metti un hard disk di quelli dentro. Niente hard disk, ho detto che il prossimo computer che prenderò sarà all'avanguardia, avrà anziché l'hard disk l'SSD, la memoria SSD. E un hard disk è stato solido, ci sono già, sono piccolini, li ho già visti. Eia, non sono molto capienti però ancora, lo sai, poi diventeranno sempre più capienti. Mi da poco avevo visto su un catalogo, ho visto un computer portatile Acer, aveva roba di la scheda video di quelle bellettecce, 8 giga di RAM, hard disk allo stato solido, insomma era il top del top, ma 749 euro, e da dove mi rilevo? Io c'ho anche l'hard disk seria latta, capito? Quelli col filo rosso sono. Eia, caspita, 8 giga di memoria, minchia. Vabbè, il sistema operativo è anche altrettanto pesante, quindi si mangia molta RAM. E aveva il sistema operativo Windows 10, purtroppo sai cos'è? Ormai non conviene prendere i sistemi operativi vecchi, tipo il 7 e l'8, conviene prendere l'ultimo disponibile, purché sia affidabile. Per esempio Windows 98 all'epoca era, almeno a me aveva dato mille problemi, e sempre schermate blu, sai le schermate blu di Windows 98, era una dannazione, era, guarda. Basta mettere Windows 7 a 32 bit, te lo metti, ti aumenti la RAM quello che è possibile, perché 2 giga bastano, poi il 32 bit ho visto che andavano bene. Eia, ma una domanda, il computer a 64 bit a cosa serve? Io ho sentito che serviva a far girare i programmi a 64 bit, ma sono pochissimi i programmi. Ah, tutti a 64 li carichi, capito? Io faccio così. Ma è una bella questo qui, questo è velocissimo. Io ho sbagliato perché stavo mettendo Linux. E non va d'accordo, in un altro disco da un tera l'ho messo, però mi ha fatto un casino, mi ha guastato anche Windows 7, quindi mi ero rimesso Windows 7 e poi vedo come cavolo fare. Ehi, Linux è un mondo a parte, sarebbe bello, è che è un casino da gestire, mamma mia, no. Io ho provato delle versioni lanciate da CD di Linux, ma insomma, abituato a Windows, certo il Linux è un altro pianeta, ci puoi fare tante cose belle, hackerare, un bijou. Ma troppo bello è Linux, e poi adesso è uguale a Windows, anzi meglio di Windows. Io quell'ultima versione avevo messo a fanculo, ce l'avevo nella disca da un terabyte, però l'ho staccato, cazzo, perché mi ha rotto le balle con questo qui, non ti entrano virus. Eia, sono rarissimi, e diciamo che Windows è attaccato malamente da virus, perché gli hacker, insomma, i Linuxari non lo possono vedere Windows, perché è un programma chiuso, capito, tutto non modificabile. Invece di Linux ne esistono un'infinità di versioni, perché sono state ottimizzate dagli stessi operatori, dagli stessi utilizzatori, voglio dire, capito? È un sistema aperto. Windows è peggio tipo Apple, no, addirittura Apple c'è, mi pare, anche l'hardware proprietario, capito? A carità. Mamma mia. Infatti quando li vedevo, mamma mia, sì vabbè, sono belli per la grafica, ma se non è per uso professionale, ma... Mm. Alberto, riprendi. Dimmi. Oh, dimmi, di qualcosa, mi. Tu il computer già ce l'hai sempre, sì. Sì, buttato non ha fatto, la metà, non lo so neanche usato, non me l'ha fottinuto. Ce n'è uno in quello di Giampiero. Di riparati un altro tecnico. E poi l'altro non so neanche usando, la verità, perché non neanche c'è tempo di usarlo. Ah, ha già compreso, da. Sai cos'è? Io da quando ci sono questi smartphone per me si è aperto un mondo. Che alla fine cosa me ne faccio del computer fisso? Quando già con lo smartphone posso navigare, scaricare posta, vedere video, cioè. Al limite fisso sì, per qualche film, puoi scaricare, te lo vedi, poi lo cancelli, qualche canzonetta. Ah, comunque esiste Emule, esiste anche per gli smartphone, l'ho saputo, quindi a questo punto. Puoi fare tutto, puoi usare Zello per parlare in PMR tranquillamente con tutta la Sardegna, basta scaricare il programma e parli tranquillamente con tutta tramite ponti radio in PMR e tutti sono per le palle. Cioè vuoi fare una specie di, com'è che si chiama, aspetta, Nathalie, quando colleghi la radio a un computer per aspetta, non me ricordo, che poi il computer si collega ad altre radio, insomma è un sistema, mannaggia, è una rete di computer che tutti si collegano uno con l'altro. No, dicevo anche per il PMR, no? Tu parlavi al PMR e parlavi con persone al PMR, però allo stesso tempo un PMR era collegato al computer e ti collegava ad altri nodi che poi tramite un altro PMR modulavi in altre zone con gente che aveva il PMR, un tipo un ecolink, non so il termine cosa usare. E deve essere così, bisogna avere il sistema com'è. Sistema di truffa, cioè. Eia, poi sai com'è, non sai mai moduli anche in locale, magari ti ritrovi ritrasmesso in altre parti e magari non ti interessa essere ritrasmesso dove non vuoi, insomma. Infatti c'era un ecolink anche qua a Sassa, mi pare, o dintorni. L'avevo letto dove? Su Roger Cup forse, non mi ricordo, ma non ci ho fatto niente. No, perché anche col computer 27 lo facevamo anni fa. Ma godendo sa che è affannato. Sì, lo dire. Basta, vai a bere. Sì, ma ci vediamo, c'è, ti spacca la testa. Non che vedete, non mi trovo. Saluta Marco, saluta, chi c'è? Chi c'è? Marco, ma no, ciao, ma tu c'hai i centri tu, Filippo, mica c'è Massimiliano mi sotto con la macchina. Cosa? Gli ho detto che c'è Massimiliano sotto con la macchina, io vai. Mia Diana se n'è andato, mia qua. No, non lo sa, fa così o quanto non hai capito. Con attacchini, poi ci mette sempre a tirare, a giocare con gli altri cani, la vera un cane, ma te si chi nel boschetto. Giocando, a voi venire a fare, capito? Vabbè, ma è Gianni lo più rum, non si è sentito, sempre in tournée questo Gianni lo più rum. Allora, è sempre in tournée deve essere, questo Gianni lo più rum. Ieri già si è sentito, ruiaia. Ah, se sono il mio, c'è un Carlino, c'è me, che si chiama Bobo, cazzo, mi ricaviamo lo guinzaglio, io arrivo e lo bandono a risoglio, cazzo, si seguono uno con l'altro, tu li devi vedere. Ma Filippo, poi che te lo scoprirai, perché tra l'altro hanno tagliato l'erba da poco, hanno disfettato tutto. Quindi quando cammina e dopo riesce a entrare dentro il boschetto un articolato, se ne fuggono tutti i cani e chiatta un piuvaro, una cosa allucinante. Poi cammina tutto di traverso, Marco, è curioso correndo, fa già ridì. Non rimane dritto mentre altri cani che hanno burri, no, si lanciano davanti, siccome lui è pesante, Uia. Ok, comunque mi ero dimenticato, ho dimenticato di pigliarmi un gocciolino di amaro, dai, vado e provvedo. Hai capito, lo piccino? No, l'aveva assaggiato lo Montenegro, puzzioso. Allora, ma te lo immagini questo arcolino? Adesso cazzo, anche l'amaro si piglia, l'aino. È vizioso, Emi, questo amaro, non te lo guardare così. È vizioso e viziato. Oh, davvero, Emi, come... Oh. Come assaggiato il Montenegro, mi sta venendo la cultura degli amari. Per esempio, Montenegro assaggiato, buono, ottimo. Jägermeister ottimo. L'amaro, allora il vecchio amaro del capo è un po' troppo dolce. Qualcuno lo considererebbe stucchevole, da quanto è dolce, però alla fine ci fai la bocca. Qui vorrei provare tipo il Braulio, che è fatto solo di erbe alpine, quindi un po' più amarognolo. E il Braulio è quello che costa meno, poi se no ci sarebbe il Lucano, ci sarebbe l'amaro Verne, la Mazzotti, ce n'è un bel. L'amaro del carabiniere. Meglio della Mazzotti, guarda che è meglio. Poi da Ocean hanno l'amaro dei sardi, col sardo disegnato, capito? In costume. Ma quella deve essere tipo... Comunque, caspita, guarda, sia il Montenegro che lo Jägermeister sono molto molto buoni, è che sono forti un po'. Jägermeister è 35 gradi, il whisky è a 38, beh, forte. Invece il Braulio, quello fatto di erbe alpine, ne ha solo 21 di gradi. Ma lo sai qual era buono? Avevo assaggiato a casa di Franco Carifo, un Antari. L'amaro dei fratti, buono, proprio fatto di erbe, non è dolce, è un bel amaro, non è amaro, nel senso diffuso, è leggero, buono, fresco. Era buonissimo. Sì, per quello ha fatto fino alla fine, guarda. Meglio che non assaggi, guarda. Perché? E non sai che fine ha fatto Franco. Franco Carifo, ma si dice. California? Sì. Appunto, lo sai che lui ormai non ne usa più di quella roba lì, non beve più. Sì, io lo so, si è messo a dieta però per problemi. No, non è quello, io sto dicendo. Noi eravamo quei vittori briagoni. Quando andava a casa sua lo bevevamo fresco, capito, dopo cena. Era un bel buono. Io l'ho conosciuto lì perché lo comprava la moglie. Non avevo mai visto questo coso dei fratti, capito? Fatto proprio da un convento di cappuccini. Era buono. No, Marco, il migliore in assoluto dopo la pizza è il Montenegro Ghiaccio Arancio. Non ve ne fa nessuno. Comunque, a proposito, se ci organizziamo ce la facciamo un'altra, Vedete un po', io questa settimana sono libero. Tanto, tu puntacci, non ti sei allenato, Sidi? Ripeti, Claudio, che sono arrivato adesso, ero in cucina. Ho detto, io questa settimana sono libero, cioè da questo sabato al prossimo sabato, rientro di domenica. Quindi, se vogliamo organizzarla, non ce n'è problema. Ah beh, basta che siamo in tanti, mica, noi siamo in due, in tre, ci andiamo dei disperati. Ecco, tu che mabboni, cosa vuoi ti dica? Io provo a dirlo nuovamente a Valerio, se scende, capito, Valghero, e i soliti quelli l'altra volta, cos'è? Tanto, siamo sempre 6, 7, 8, quindi, capito, magari viene anche Sandro. Si è libero, l'altra volta era impegnato. Vediamo un po', ci organizziamo. E andiamo. O andiamo dove siamo anche adesso, oppure accontentiamo Gianni, ci facciamo portare da Gianni. Eia. Ah, buono, Allora, il vecchio amaro del capo, no? Ciolo dolce, costa ben 13 euro e spiccioli. Siccome non è che siamo così benestanti da comprare liquori costosi, no? Abbiamo comprato questa volta l'amaro del Golfo, che praticamente sembra una copia sputata dell'amaro del capo. Sulla bottiglia di vetro lo stesso c'è una specie di stemma araldico in rilievo, delle scritte laterali in rilievo sulla bottiglia. capito, quello amaro del capo, questo amaro del golfo, e il sapore è molto simile, molto simile. Anche questo è buono, però costa solo 5 euro, mentre l'altro ne costava 13. È tutto business, magari sono la stessa casa, ho fatto la stessa casa, Marco, capito? No, meglio domani. Devo andare a mia moglie stasera, no, vado io domani mattina a fare la spesa, prima mi sistemo il cane e poi vado. Capito? Perché voglio prendere la menta, quella di sciroppo. Io ho sempre avuto l'estate, siete i tafoni, menta con ghiaccio e l'acqua gasata, capito? Ti dice tanto. Fare queste cose domani. Ci vado io in macchina, che devo sempre a piedi, prendere bottiglie, ne prende poco, l'acqua la prendo io, mia figlia. Domani vado io, prendo un po' di sciroppi, capito? Anche perché l'aria poi a volte li cerca per fare degli aperitivi e non ce n'è mai. Poi di amari cattivi, il più cattivo credo sia in assoluto quello, il Fernet Branca. Una volta l'ho assaggiato, ho sentito il sapore di... sembrava... cosa ne so, proprio il sapore di salaboratoria, terribile, amaro come il fiele, proprio una cosa rivoltante, o era guasto, ma non credo, l'alcol non è che scade. E poi l'unicum è un po' simile, ma è fortissimo, l'unicum è anche forte, dice che ti lascia la lingua intorpidita, quello è amaro per veri uomini, capito? O per l'uomo che non deve chiedere mai. Il più forte di amaro infatti è l'unico, ha visto c'è la croce rossa, perché come lo bevi sei già morto. O ti ci bocciani con l'ambulanza. È il più forte di tutti, l'unico, ma non c'è neanche nessuno. Chi beve l'unico vuol dire che veramente ci ha fregato. Io un giorno ho provato a berlo con lo zucchero, più zucchero le mettevo, cazzo più amaro era. Vai, non amara. Ma a te quale piace di più? Vabbè, la risposta è ovvia, Montenegro, se no non l'avresti preso. No, ma io non sono un bevitore di amari, niente, proprio non ne bevo, capito? L'unico che bevo è il Montenegro, ghiaccio arancio, quando siamo tutti così in compagnia, anche con mio fratello, in pizzeria, eccetera, cene. Non bevo acqua vita, non bevo niente, io bevo il vino e basta, manco birra. Birra è difficile proprio, no, che non siamo già una calda, calda, calda. Allora un bel bicchiere di birra fresca ci sta, se no non... Tanti tanti anni fa, ui, bevevo di tutto, un franco, amaretti, non ce n'era più nessuno, amaretto, la sambuca, per noi era acqua. Pupone invece beve solo birra, delle altre cose non ne tocca niente. Un giorno gli volevo far gustare il gin, ma proprio a bagnarsi le labbra. Oh no no no, assolutamente. Il gin è buono col cardinale. Oppure se fai il tropical, ghiaccio, menta, latte, fresco, freddo, e ci metti un goccio di gin. Allora lì c'è la fine del mondo. O il gin lemon, quantomeno. Il gin lemon, gin fizzi, vabbè, quelli sono mitici, capito? Però il tropicale è buono, d'estate, è buonissimo, ti dissetta, non fa male, c'è latte menta, ma un goccettino di gin se lo permette, capito? È molto dissettante. Poi tutto il resto, gin tonic, non ce n'è per nessuno, ma sono tutte bibite estive, che però... se ne approfitti di cervi e degeni, perché l'alcol c'è sempre, poi con la roba gasata così, non è che come molta gente, no, oh, io rovino, lo vivo con l'Eva, sì, l'Eva cosa mesi di voti a rovino. Sì, guarda, gin lo vedo più per i cocktail. Io ce l'ho il gin della Gordon's, sempre per gli ospiti che non vengono mai, perché quella roba non ne bevono. Il gin liscio, senza ghiaccio, va bevuto liscio il gin, mamma mia, è pungente, capito, fatto proprio con le bacche di ginepro, è pungente, non è per tutti, dai. E certe volte anche il rum, il bianco più che altro, il rum bianco va bene più che altro per i cocktail, solo il rum scuro, gold, va bevuto liscio, e comunque ci vuole fegato, che sono sempre 38 gradi lì. Va bene, io vengo di mare isolati di Lucchiago. No, no. Te l'ho detto, 10 anni fa, qualcosa così da per cui basta. No, no. Niente supera il covid, perché ho bevuto il vino a casa mangiando, neanche fuori. Fuori, io ho questo periodo qua, infatti ho sempre un po' mal di stomaco perché ho un po' di colite, poi c'è il flusso verso del faggero, quindi però Coca-Cola, bottiglietta ce ne bevevamo, bella fresca. Una volta la prendevamo senza caffeina, a volte lì poi imbagliavo, andavo via a fare il peso, a prendere con la caffeina, quindi io il caffè non ne prendo, prendo solo la mattina alle 6 e basta, perché sennò poi non dormo. Un'altra notte rimanevo a fare la vedetta, sempre a Ucciabelli. No, no, no. E purtroppo, una vecchiaia carogna, prima anche la ghiaia digerivo, adesso non digerisco più niente. Comunque, parlando di queste cose, no, noi qua abbiamo anche il rum, il pampero anniversario, il gin, il latte di suocera, quello fortissimo, no? Però secondo me l'amaro è più sano, perché prima di tutto lo si beve dopo mangiato, quindi sa, stomaco pieno, poi io conta, sai i bicchieri di carta, no? Che poi sono di plastica, no? Quei bicchieri usa e getta. Io ne bevo, tu immaginati come il fondo del bicchiere di plastica, 7 mm ne metto, come altezza, 7 mm, 6-7 mm, non di più. E bevo pochissimo, sono proprio due sorsini, due sorsi piccoli, tanto da per digerire tutto lì. Ricordati che io non bevo praticamente, quindi neanche troppo questo mi dopo mangiato. Però fuori dai pasti mai, assolutamente. Fuori dai pasti mi viene l'idea che se uno è a casa e si fa un concetto della cosa sua, va bene, io c'ho Martini, sia bianco che rosso, sempre in frigo, capito? E quando io voglia me lo faccio un goccettino, ma giusto così come aperitivo con mio figlio, una scorzetta di limone, di arancio, capito? Pure l'aria fa gli aperitivi così col Martini. Però se a casa tua non è che devi bere fuori. A me il liquore, che piaceva tantissimo, avevo un franco di sicurante, non avevo vinto. Finta della ringaggiata di diventata la strega e mi la cidro murcia, era una cosa allucinante, buona, era strega buona, un liquore mittico, ero ragazzino io, ai tempi del Bianco Sarti, Rosso Antico, e c'è stato sempre il cidro murcia, la strega, il cuore strega, giallo, ma aromatizzato, è buonissimo quel liquore, è buonissimo, guarda. Lo strega, sì, mi ricordo, no, ma non esiste più, no. Ma dimmi una cosa, cos'era, tipo il mille fiori o diverso? Quello giallo? È un liquore un po' particolare, però c'ha un gusto molto, molto meglio della sambuca, di quelle fesserie lì, capito? Ma veramente è buono, era buono, ma ti parlo di anni e anni fa. Lo bevevamo, perlomeno lo bevevo, io lo assaggiavo spesso quando avevo voglia, soprattutto d'inverno, sono quelle giornate fredde, la samucca che abbiamo usato, cioè, quindi un goccettino di questa strega. Ma il sapore proprio che ti lascia in bocca è veramente molto molto buono, come non c'è, ci sono bar che ce l'hanno. Ora guardate ancora Rosso Antico, la strega, Villa Cidro, Vervovo, non ho capito. Il Vovo addirittura mamma lo comprava spesso perché lo bevevamo a casa il Vovo. Ma ventenni, capito? Ventenni, lo bevevamo. Non lo sai, dicevamo proprio quei bicchieri di piccoli, capite? Sarà un cucchiaio e mezzo di roba. Lo bevevamo, ma proprio il Vovo, no, già Vovo, di tutti i Vovo. Quello agitava bene e ce lo dava. Sì, guarda, io tuttora per il Vovo stravedo. Ma anche lo Zabove è buono, non è che cambia. Il Vov è della Peziol, lo Zabove è della Moccia, ma è buono lo stesso. È buono lo stesso. Cioè, sono buoni i cuori dolci, a me piacciono, solo che non... se non capita che me lo offrono non bevo così. Qua giusto amari, perché è giusto che se lo beve mamma, allora appena appena, ma poco, mi proprio ieri a mamma le ho detto, ma come ne pigliamo l'amaro, no? Dopo pranzo, dopo cena, perché non prendiamo quei bicchieri minuscoli, come hai detto tu, quelli piccoli piccoli, perché per non pigliare questi bicchieri di carta, che brutto, dai, infatti se troviamo quei bicchieri piccoli, piccoli piccoli, come hai detto tu, li prendiamo, sette, perché siamo senza, gli altri sono bicchieri da vodka, sono bicchieri più grandi, non vanno bene. Oppure non è che non vanno bene, ma ti invogliano a riempirlo, quella è la cosa grave. Un attimo, allora sai che è successo qua a Olbia? Passa una famiglia di 8 persone a Roma, hanno occupato la casa di un pastore, Candida Dravaglielli, io dico quando è turrato, giustamente li ha invitati a andarsene, con le buone. E quindi risposta negativa, di Zipruenti avviene bisogno di vivi, e allora sappato, non ha chiamato pulizia, ha chiamato gatta, sì, amici suoi, tutti all'ospedale. Di Roma sono tutti all'ospedale. E allora? E ma come non ha avuto anche fucilata? Non te la tette a questa gente, se hanno bambini piccoli, no, ti rivolghi più, la legge è a favore loro. Comunque è una pazzia che tu esci per fare una commissione e ti trovi la casa occupata di Roma. È bello che noi puoi buttare fuori, è da pace me. In uno stato come lo vorrei io, quelli alla velocità della luce li avrei fatti anche espellere dal territorio italiano, tanto non ci fanno fare niente. Ma no, è un casino. Perché l'altro giorno stavo ascoltando la TV lì a quarto grado, dalla vostra parte anche c'è quello quarto grado, e poi quello della vostra parte è quello che dura un po' meno. Stiamo parlando proprio di questo, che questa gente che occupa le case così abusivamente, se hanno bambini piccoli, la legge è dalla loro parte, non li puoi buttare fuori, è un casino. Cioè a casa mia tu mi dividi la casa, solo che vai un pì, no, io ti sparo. Sì, e scusa, loro hanno diritti, e tu i diritti con la tua casa che fine fanno? È uno stato debole, l'Italia è uno stato debole, uno stato, diciamo che uno stato canaglia proprio verso i propri cittadini, questa è la definizione giusta. Allora, invece quello polizia non ha chiamato, ha chiamato sì, a Gesù, sono entrato da dentro, la ricostruzione su saluta i pilari, 10 giorni di prognosi, se tutto va bene, salvo complicazioni. Ma bambini non ce n'erano? No, si sa, nell'articolo ho letto una famiglia di 8 persone era, a Roma. Ma tu volete avventurarsi così? Avventurarsi così? Pensano che siamo tutti macchine, che non li quasi in usa, invece la soggiama non mi chiama la polizia, quindi non la fusilà da subito, la calmoce in terra. Allora, è partito il colpo. No, con la beretta, mi sono partiti 15 colpi, per sbaglio. No, non sparire da un passo magliare, così manco le ossa trovano più. Non bisogna avvertire di polizia, ma bisogna ammazzarli e buh. Sì. Comunque avete visto anche oggi, 5.000 migranti con i barconi sbarcati, ne stanno arrivando a migliaia al giorno, io non so che fine fa l'Italia, cos'è che a Platamona c'erano più neri, ci stavano anche facendo il bacio, c'erano più neri che italiani l'altro giorno al mare. Ma sai cosa è successo anche? Io ci avevo l'ombrellone, le sedie, l'asciugamano e poi dietro le sedie le borse. Arrivano questi neri con queste nere che chissà perché mi sembrano quelle che vanno lì a Predanieggia e si sono seduti soprattutto al donna, si è attaccata alle mie borse, attaccata, sai cosa vuol dire, proprio con le borse attaccate addosso. E io per un attimo stavo gonfiando una cosa, ho soprasseduto, ho detto vediamo cosa fanno. A un certo punto parto di botto, ho detto ma perché non vi allontanate? Non vedete quanto posto c'è? fa credere di essere attaccate qua. E quella ha detto, ma perché sono sue le borse? Eh beh, sono mie, non lo vedete quella roba qua. Secondo me voleva furare. O cosa credeva? Che le borse fossero state abbandonate, così se le pigliava lì. Quelli secondo me volevano voler rubare. Io come giravo la testa, quella allungava la manina e metteva la borsa nel scommetti, nello zaino dove c'erano i documenti, le chiavi. Stavo cominciando a rompere le balle. Ah, il macete ci vuole, così la manina gliela tagliavi. Ce l'ho, ne ho due. Col fodero verde mimetico. Io non me la devo buscare io. No, vabbè, ma è danni grandi, Marco, perché lì alla Acqua Duletta, dove c'è l'Acqua Fantasy, c'è un villaggio proprio attaccato all'Acqua Fantasy e sono veramente di un'educazione. Non lo credevo. Vanno, sono sempre lì, tranquilli, stanno seduti fuori nel loro complesso, a chiacchierare, a fare, si mettono, addirittura hanno pulito un pezzettino di campetto che c'era, si hanno pulito loro, tagliato l'erba, si hanno messo due cosi per giocare a pallacanestro, hanno fatto una rete per giocare a pallone. Cioè sono qua, non disturbano niente, io ho chiesto a quello della Confantasy, al direttore, ho detto ma è che convivenza, guarda, ho detto qua, è come che non esistano. Sono veramente un gruppo, saranno una cinquantina, sono un gruppo veramente ordinato, non assolutamente, capito? Quindi è da persone a persone. Vabbè. C'è un via via impressionante però, tutti con biciclette, ma non dove le prendono? O le rubano o gli regalano anche quelle, cosa ne so io? Ma fatto sta che questa si è messa la seggiolina proprio attaccata, non a dire 10 cm, no, attaccata. Infatti ho detto, ma questa vuol rubare. Poi, sai, non mi è venuto da dirglielo piano, scusate, ci sono i miei... No, proprio sono partito. Oh, ma perché non vi allontanate? No, non vedete che ci sono le borse qua, c'è tanto spazio libero. E quella ha avuto il coraggio di chiedere, ah, perché sono solo le borse? No. Comunque dalle facce anche mamma mi ha detto, ma queste non sono, perché sai, quando torni, quando passi da fuori, che ne so, a Santa Maria, le riconosci che sono quelle nigeriane mie, messe a battere, e stanno frequentando proprio la rotonda, e c'è un via vai impressionante mi, ma lo sai che si mettono anche buttate a terra per riposare, non è che stanno seduti su noi, buttate a terra così. Infatti ho detto, ma uno si sente male, che voi si sentisse male, invece si era buttato a terra per riposare. Forse al paese loro fanno così, ma se mi butto a terra io così per riposare mi piglio a calci nel sedere. Nigeriani fanno schifo, nigeriani e nigeriani sono proprio, fanno schifo. Questi che sono lì a Padoleda, c'è qualche marocchino, addirittura ce n'è uno di Casablanca, figurati tu, e gli altri sono tutti senegalesi, sono veramente dei bravi ragazzi, giovani lì, ce n'è uno che ha 19 anni, figurati tu, e poi c'è una coppia, marito e moglie, con un bambino che è una cosa allucinante, è ridicolo, ti fa ridere solo a vederlo, sembra quello dei cartoni animati, negro, coricciolino, piccolino, che ha sempre i rendi, papà, fatti detto la madre, ma cosa vuol dire? Non lo so, sta sempre così, hai detto, capito? Sono senegalesi e qualche marocchino c'è, invece le nigeriane, i nigeriani sono puzzinosi, viaggosi, ladri, papponi, ragazzi. No. Sì, comunque è vero, i senegalesi vengono qua per lavorare, per vendere roba, sono diversi. In Nigeria ricordati che c'è violenza, che ci sono mezze guerre civili, c'è traffico di esseri umani, mandano questi a battere, ci sono i truffatori nigeriani, lì c'è gente cattiva, gente brutta che viene qua. Infatti quando beccano al corso qualche spacciatore nero, non è senegalese, sono tutti nigeriani. E purtroppo mi sto rendendo conto che... Ma dice, era uscito un articolo sul giornale, mi lo sai? Era uscito sulla Nuova tempo fa un articolo, dice che nelle regioni di Sassari Vecchio, dove stanno arrivando nigeriani e romeni, i senegalesi stanno fuggendo, perché quella gente è brutta. Come non raccoglie i senegalesi e i nigeriani? Oh, assolutamente, quella lì sa che era scoppiata proprio lì, nella zona dove abitava prima Antonello, non era tranquilla. nigeriana e senegalesi. No. Questi sono bravissimi ragazzi, sono una cinquantina, io li conosco tutti. C'è il cancello, come quel cancello per entrare a Padoleta, che loro sono proprio lì, faccio letture dei contattori giù perché sono serviti appunto reperiti, c'è addirittura la cuoca, c'è chi fa le pulizie, sono veramente ordinati. È un villaggio che gli ha dato il comune Trinità e stanno lì dentro, ma tu devi vedere, è pulitissimo. Tutte le mattine quando arrivo io arrivo verso le 8:30 lì, in quella zona, sono tutti indaffarati, chi sta pulendo fuori, chi sta ritirando la mondezza, chi arriva al cambio per scaricare la frutta, sono tutti indaffarati a fare, non rimane ni mai venni, e sono tutti senegalesi e qualche marocchino c'è, capito? Salutano, parlano bene l'italiano, poi sono già da un bel po', salutano a tutti, buongiorno, buonasera, ciao, a me mi dice tutti ciao, capito? L'altro giorno uno, perché non escono, c'è uno che fuma, e mi ha chiesto una sigaretta, ho detto ma non puoi, sì, a piedi andiamo, però tocca salire a Trinità, è troppo lontano, detto, vabbè, domani quando scendo te le porto io un paio di pacchetti di sigarette. Gli ho portato due pacchetti di sigarette di Camel, ok, mi ha dato 10 euro così, si ha tolto 10 euro di tasca, tieni, ho detto, ah, non ne voglio, no, tieni i soldi, ma stai scherzando, capito? Le colonizzazioni francesi li hanno educati bene, i senegalesi. E c'è Nigeria, c'è un brutto ambiente, fanno traffici di droga. Ti ricordi, ci sono i truffatori nigeriani che truffano con quella fesseria che ti fanno vedere che dalla carta normale ottieni soldi, sono tutti imbrogli elaborati, e certi sono cascati, certi idioti italiani, tipo persone anziane, che quelle non... erano convinte che dalla carta con questo liquido ottenevano i soldi, ma si può essere più imbecilli anche loro, cioè alla fine truffatore fa il suo lavoro, ma che è così imbecille da cascarci, quasi ce lo merita. Ma ti ha detto bene Natalino, ho capito? La fazzoleria che c'è di prostituzione eccetera, sono tutte nigeriane, non ce n'è senegalesi, no? Sono tutte nigeriane, capito? Perché sono nate per fare quel mestiere. Comunque mi sono stupito anche che tra le migliaia e migliaia di persone che vengono qua, mi sono stupito che non ci fosse gente anche con Ebola, lo sai. Mi sono stupito perché questi arrivano e non lo sai cosa, che malattia può avere. Se scoppia qualche epidemia per colpa loro gli mettiamo fuoco. E quanto ce n'è? Madre di Buco non è senegalese, non ha vita qua. Alla Sassarese, Coso, Amir, c'è un sacco di gente che conosce, addirittura c'è una coppia proprio senegalesi che hanno residenza qua, che vanno a mangiare lì dove c'è l'aria, capito? Lui lavora in un'impresa edile e lei fa le pulizie in una casa, ma tu devi vedere, qua vicino a me, nel palazzo di fronte, qui a Polgarassi, c'è una coppia lo stesso, e sono tutti e due senegalesi, parlano il francese, marito, moglie e un figlio grande, mi sembra che ci abbia già forse già maggiorenne, poi una piccolina, e abitano nel palazzo qua a Polgarassi, capito? Sono in affitto, lei lavora in uno studio dentistico, e lui penso che lavori lo stesso in un'impresa edile, capito? E gente pulita, ordinata, tu devi vedere che hanno esci di virtuti tutti e due, tutti etichettati, tutta roba di marca, gente che lavora, gente che fanno queste cose, ma questi disperati che arrivano, questi, insomma, ma non è uscita la legge che non si poteva prendere più nessuno, questi sbarchi, queste cose, invece si continua ad arrivare lì. Ma il peggio è che mandano la guardia costiera, le navi, al confine lì con le acque libiche ad accoglierli, non solo li accolgono, cioè li accettano quando vengono qua, ma vanno anche a prenderli alle coste della Libia, capito? Vicino alle acque territoriali della Libia. O c'è qualche mafia sotto, non lo so. Già paghiamo noi, Luca Giulio, qua per la marina militare, la guardia costiera, capito? Roba da mafia. ballati quelli lì vicino alla Sicilia, mi pare un paesino che il sindaco ne ha ospitato 50, ci siamo ribellati, e dicono, ecco, no, ma mangia noi, siamo la fame e tu ospiti questi immigrati. Vabbè, invece c'era sulla nuova di ieri, a Usini c'era una partita di calcetto, bianchi contro migranti, e beh, si sono azzuffati alla fine. Oh. Magari l'arbitro era io. Ah boh, perché l'arbitro fa anche? Oh, sto scherzando, sto scherzando. Lì dove aveva impegnato il lavoro, magari manco vista, sono un altro berretto. Comunque, a parte gli scherzi, perché questa gente, soprattutto i nigeriani, sono bel ladri, tu immaginati che mio cognato, marito di mia sorella, che è supervisore della Saipem, c'è un ruolo allucinante, gruppo Eni, quando ho fatto mettere a voto di Nigeria, adesso non terminato, mi sembra che sia, in Marocco adesso, ma gira il mondo, è uno, non so, ma quindi di cui ne ha più. E lui c'era un container da campo, operai nigeriani, operai nigeriani che lui non lo può vedere. Hanno aperto il container e si hanno rubato tutta l'attrezzatura da dentro. Boh, poi tanto non gli fanno niente perché no. Bisogna, diciamo, se vogliono investire bene i soldi qua in Italia, perché non aprono più carceri? Capito? In Italia manca la certezza della pena anche. Non è che, caspita, sovraffollamento, quindi dimezzi gli anni della pena, buona condotta e li dimezzi ancora, poi permessini, indulti, poi hai visto tu, adesso parliamo di italiani, anche questi italiani che hanno avuto il permesso, certi no, gli davano il permessino e andavano a fare rapine, capito? Non bisogna darne permessi a certi, sono recidivi, non c'è niente da fare, parlo italiani, Scusa, se vogliono ospitare i migranti, c'è la Sinara che è libera, c'è Fornelli, ci sono le stanze tutte rifatte a nuovo, le carceri, le celle tutte rifatte a nuovo per due persone, hanno rifatto a nuovo tutte le cucine, perlomeno quando ci andavo io per lavoro, c'è Cala Reale, c'è Cala d'Oliva, c'è il Trabucato, c'è il coso, ce n'è da lavorare, a tagliare erba, a pulire le scuderie, a fare. Se li muovi tutti i chili, li butti, vai 3-4 viaggi di navi, capito? Se li muovi i chili, stai tranquillo che da lì non scappano. E poi costruisci intorno alla Sinara un muro alto 15 metri, per tutto lì. Per tutta la... a circondare l'isola, così non escono più. Marco, non so se tu ci sei mai andato, ma io ci ho lavorato per anni alla Sinara, ok? Ci andavo il martedì e il venerdì, tutti i santi giorni a cambiare i filtri al dissalatore di Cala Reale. Cala Reale, facevo Cala d'Oliva, ci sono i Lasconi, giù a Fornelli dove c'è il coso della ricerca lì, delle tartarughe marine, capito? Ci ho lavorato. E posso dire che solo Matteo Boe è riuscito a scappare dalla Sinara, ma non è fatto di fuggire dalla Sinara, poi sono usciti tra piombi, soprattutto da Fornelli, da Cala Reale, dalla zona lì di Coso. La cosa bella che a me è sempre piaciuto è proprio il villaggio lì dove c'è il faro di Punta Scorro, quella è una zona micidiale, ma non puoi scappare, tutto mare aperto, o venire a Pigliatti, a Rovuggio, ma è molto difficile, ripeto, solo Matteo Boi è riuscito a scappare, ma ha fatto poca strada perché non è arrivato manco in Corsica, che l'hanno investigato subito, capito? Quindi l'avrei fatto io un... Cala d'Oliva è bellissimo, è proprio, sono tutte le case che quando si vede bene, è l'ultima punta proprio del faro di Punta Scorno, quello lì, quella è Cala d'Oliva, quello sembra un villaggio, proprio sono tutte case, ma case belle che io ho visto, dove abitavano tutta la gente, guardie carcerarie, carabinieri, polizia, finanza, c'è la caserma della Guardia Finale. Porta, c'è la caserma dei carabinieri, c'è la caserma dei vigili del fuoco, non pensare che non ci sia niente alla generale, c'è tutto, tutto quello che serve. E tutti i piccoli negozietti che c'erano prima, che adesso sono tutti chiusi, che comunque ci sono rimaste ancora le insegne, la latteria, c'è la latteria, panetteria, c'è tutto, è rimasto tutto in capo, capito? Eia. Natale, prendi un po' tu, dai, che mi bevo un po' d'acqua. Dopo questa lema magia, al faccia che abbiamo fatto un sacco di radio, tutti, nostro Giulio, sono andato a faccio vita, ma lunedì Piazza del Cigno me le compro, Marco, lunedì vado a Piazza del Cigno, mi compro la Giubita, da Giovanni, quello lì della Crucca, che c'è il coso della Crucca lì, della comunità, capito, una roba buona, male me la compro, non ho mangiato giochita ancora, Natali, tutta che l'hai maniata sarrettina, la mazza che te ne varia, Natali! Aspetta, solo 8:30 passate, magari è andato a cenare, mi. Capito, mi prendo un pochino, una ciucciattina. Non male, non c'è gusta. Da tutte le parti, non ha giovito una, per fortuna non ha piovuto, così ha giovito esci. Avete parlato in due, avanti Natali. Ho detto che me l'ho mangiata tutta. Prima me ne avevo avuto una rettina. Dopo ieri è venuto mio fratello e ho cucinato anche l'altra. E la roba una bella ambrosia via. L'ho cimentata qua. Ascolta Natali, ma l'hai comprata anche tu o te l'hanno data? Regalata me l'hanno. Sciallo per cacchio l'hanno fatta, porca miseria, io non ho giubito nulla che fanno, nulla, non ho visto la macchina da nessuna parte. No, e io lo so se faccio la sassarese, capito? Bollite, schiumate, aglio, un pochettino di olio crudo sopra, maglierata e succhi andiamo, succhia! Ehi, il peperoncino ci ha messo buona vivi. Allora, peperoncino, beh, a proposito viene prima, insomma niente, vai, ma qui ti saluto. Sono 9:20, mia moglie mi ha già fatto cenno. Vado a cenare, dai, ci sentiamo domani, fatemi sentire e io ve l'ho letto. Questa settimana sono a casa, quindi in radio ci sono, vai. Ciao Marco, Natalino, Antonello se ci sei ancora e chiunque fosse in ascolto qua sul canale 10. Buon fine serata a tutti, a domani, ciao! Ciao, ciao, anch'io me ne vado in quei vetti, dai, che sto cenando. Ciao Marco, alle prossime. Eia, buona cena a tutti, dai, buona serata e ci sentiamo domani. Ciao anche Antonello, se ancora l'ascolto, eh. Ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao, ecco lì Antonello, che si è sceso male dal fratello, dai. Ci sentiamo domani, ciao. Ciao Claudio. Ciao, sì, ti ascolto in Spagna, ma sto andando a Magnà, a Magnà. Restami un mese. Questa fame, la pancia protesta. Buona serata. Esta fames, me da fames. Ehi, ma chi era che ha salutato? Non mi viene il nome. Non lo so, fatto vedere da lui a vedere chi è. Ciao Claudio, sono io, ciao Marco, ciao ciao. E vai ascolto, ciao. Ciao Mari, buonasera, ben ascoltato. Ci sentiamo che c'ho fame, ciao. Vai a mangiare, buonasera, a te quella, ciao. Ciao Marco, anche te, ciao ciao. Ciao Marino, ciao, t'ho sentito proprio di sfuggita, ma ci ho azzeccato, dai, eri tu, non mi veniva il nome, dai. Buona serata anche a te, dai, ci sentiamo. Vai tranquillo, sono stato Marco, ciao ciao. Ciao, ciao a tutti, ciao Mario, un abbraccio, fatti sentire, la mazza te ne varia. Grazie, grazie. Mi scappa la mia, ciao ciao. Ciao, ciao Mario, mio Antonello, mi risuscitato. Ciao Antonio, che sto chiudendo e c'ho fame, ciao a tutti, non ripeto più, ciao. Antonio, oh Mari! Sì! Ma c'ho vita dalle parti tue, non ce n'è! Giuchita, ma tu lo sai che è giuchito! Una volta fa qua vuole prendere buttata la giuchita! Vero, non ce n'è perché non ha piovuto! Ah, ha piovuto la piano in fede la giuchita, non mi vedi! Oh, e allora non è compareggio! No, non compareggio! So che non c'è la baffa di fuori, non conviene cosa non è sta su chi sta. No, allora non è colpa. Hai fatto bene a dirmi, infatti. Va bene, dai, passo e chiudo, ciao. Su Claudio, una volta che piove la giochita l'ho pigliata la tata, sono i fermi, se un piano siamo mai fuori, allora è un discorso diverso, perché io già sai io lavoro, prima dopo lavoro, sono passato un calcio, un bar, e la settimana scorsa ho fatto la stagione della giochita, c'è la giochita, c'era un macchone, però la giochita l'ho pigliata e roba di fuori. Comunque la rimagnata per la piena, ogni fuori qua sempre buona era. Però di qua è una piove, lo sai, c'è il verme, non si poteva fare. E infatti quell'acqua che ha fatto sicuramente. E vabbè, ma lunedì volevo andare a fare segni a vedere se c'era quello lì della comunità della Cruca, che c'era sempre Romacchi, Romacconi, Giovitta, capito? Magari l'ha fatta quando non ha piovuto e ce l'aveva dentro. Ma quindi intanto se è buona me la dà, perché ci conosciamo Giovanni, se no, no non me ne dà, capito? Va bene, grazie dell'info Marì, ci sentiamo, ciao! Ciao Claudio, ciao ciao! Ciao ciao a tutti, ciao! Ciao Marco, ciao!